Navili. Jesus, quella trombetta. Non capisci il fa della mattina per dormire. D'ora in ora, le chi come una sveglia. Messera Giuscarpià volteva via. Pena, pena un'idea. Quella trombetta besiusa. Tic, rivenchì, la tusa che se galena e il pader che se spara. Ah, oh, caro ti, è il tumbum. Viva il tumbum de San Marc, viva i temp dell'ara belara. Belara. Te dormet, eh? Te dormet impastada de sognte se, de quanto cugnusuda sempre insurmentida te se stada. Anca ves de sedada, anca ad avela veduda la vita, come mi. Ah! Quel fas stringa della ghirba, attira sira, parlumen minga. In stu mond birba, pien de travai, l'unic remedi le de dormì. Dai brugher de Tesin, dove se cubium acqua e navili num, lassù nasi, me mevi, e da turbig a bufalora, pe fin al bas de Pavia, acqua, acqua. In Emaus te trevi, in Emaus te lasi, acqua, acqua. Da Biegras a Gagian, da Corsic a Runchet, passum, se dubium, a Saradente il noster Milanin, vec in d'un anelin d'acqua. Di lavander vedum in su la riva i prei scultum i ciacul scioster e balauster mirum se spegium in frescura e in umbria al pun di sirenet chi doppiantun antic che te se spanden frundus de sura via. E finalmente sem chi, con tutta turna, crusere padiglion. Alla cagranda, denanza chi duec, rus della cetasion. Si ta che dorma. Da San Barnaba, questi si fulit in furs della notturna un pas che fila sul si ta che dorma funda bionda oh, bella bionda la luna ciù che canta alla luna i do i tri bionda, oh bella bionda, la mesa, a San Nazar. Sem vec, oh bella bionda, in stan, che chi mesgnac in suta terra, vem in tumba. Dopo tan che nem vist e de cas e de gent, cosa t'empar a ti? Non me despiasas quas de finila in sci un bel condut de ciment, un vultin e quest le tut. In stu mund birba pien de travai l'unec remedi le de dormi. Pesnanca! Tri trumbetti in triur, tri letig, un ciucatun, un mat e un assassin. Not bianca! Lui. Si tacche bui. Dopo che il su le andà giò per istrà, oh che caldana ier, oh che sira barocca, ingrignada patocca, meisha, gent che ranca. Andaven alla Birra Italia, se fugnaven a Badaluc in tram, e col cinc, e col tri, e col dudes, andaven al Luna Park, al Lago Park, al Mira Lago. Ma di me part, strad vei, preiuni, asfalt che buta cald, sit mort, purtinari in manega de camisa sui port, sem a mei, che le sta. Le rivada! Delio Tessa. Navili. In pubblico dominio. Voce di Annibale Covini Gerolamo. Creative Commons 4.0 International.